Odo iza tutla alaihi sitayuni janga namamu ayatuna ayaji amendeng. Gala wawiei aswatirul awalina dunko tali arambini. Dunko tindi arambini. Oho latako fiu.